11:16 sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Buongiorno a tutti e tutte da Eddie, che oggi vi accompagna in solitaria e fa un grande in bocca al lupo alla sua socia Francesca, che è a dare un esame. E allora, come al solito, il martedì mattina ci siamo noi a tenervi compagnia e andremo avanti fino alle 12:45. Ricordiamo i contatti 011 24 95 669 per chiamarci e il 346 6673 263 per scriverci e per il servizio CISTI, viaggiare informati. E adesso vi lasciamo un attimo a un po' di musica per andare a presentare la puntata di oggi. Coming from your country, you see, you are the major purchaser of our national product, which is of course cocaine. On one hand, you're saying the United States government is spending millions of dollars to eliminate the flow of drugs onto our streets. At the same time, we are doing business with the very same government that is flooding our streets with cocaine. Mm-hmm. See, see. Let me show you a few of the other characters that are involved in this tragic comedy. I'm on the border of Bolivia, working for pennies, treated like a slave. The coca fields have to be ready. The spirit of my people is starving, broken and sweaty, dreaming about revolution, looking at my machete. But the workload is too heavy to rise up in arms, and if I ran away, I know they'd probably murder my moms. So I pray to Jesucristo when I go to the mission, process the cocaine paste and play my position. Okay, listen, Juan Valdez, just get me my product before we chop off your hands for workers' misconduct. I got the power to shoot a copper and not get charged, and it would be sad to see your family in front of a firing squad. So to feed your kids, I need these bricks, 40 tons in total, let me test it. Indeed, I, shit, this is good, pass me a tissue, and don't worry about them, I paid off the official. Yo, it don't come as a challenge, I'm the son of some of the foulest, elected by my people, the only one on the ballot, born and bred to consult with feds. I laugh at fate and assassinate my predecessor to have his place in a third world fashion state, lock the nation with 90% of the wealth and 10% of the population. A central intelligence agency takes weight faithfully, the finest type of China white and cocaine you'll see. Honey, I'm home, never mind when your bank account suddenly grown. It's funny, we're so out of this debt for this money we owe with ya. When have I told you that I had two governments overthrown to keep our son enrolled in a private school and to keep our tummy swollen? Come on, our fucking home was built on a foundation of bloody throats, the hungry stolen of their souls. Of course this country's running coke. I took a stunning oath to hush the ones who know. The CIA conducts the flow for these young hustlers that lust. I go work in the hood, hit my connect. That's what's really good, and supply work to the hood. These dudes fucking crack me up, scrutinize like we inferior, petrified when we meet in my area. My crew don't shoot till I say so. You got the loot, give me the yay yay, like ice cubes, so don't play with my yay yo. We won't stop you, you bastards. My street family's shopping and bagging, taking pictures and tapping phones, debating snitches and cracking codes. Fast the cuff or blast the foe on any hustler stacking dough. Just pump the crack a blow, and my overtime is where your taxes go. Or gain your trust, get you the hand wave to us, cause we paid up front on the low with cameras taping you. Getting pop away, the prison sentences doom. Make the collar to leave with two keys out the evidence room. Went my frame, truck, boat, or plane, they watching you. You think you got work? They copping too. We control blocks, they lock countries and own companies. We had nice cars and sneaker money. Now it's players out there talking about they holding the bunks in their house like they down south with windows open. Your dough ain't long, you wrong, you take shorts and soon. Feds will be up in your mouth like forks and spoons. So enjoy the rush, live plush off coke bread. Soon you'll be in a cell with me like Jenny Lopez. In the school I was a bully, now life is fully a joke. I keep afloat on a boat for Peruvian coke. Players do favors for governors and tax makers. Fat quakers smoke crack and sex acts with bad mayors. The walls got ears, you big mouths probably scared, not prepared to do years like Javier. The story just told is an example of the path that drugs take on their way to every neighborhood and every state in this country. It's a lot deeper than the niggas on your block. So when they point the finger at you, brother man, this is what you gotta tell them. I'm not guilty. You're the one who's guilty. Lawmakers, the politicians, the Colombian drug lords, All you who lobby against making drugs legal, just like you did with alcohol during the prohibition, you're the one who's guilty. E allora le parole degli Immortal Technique ci lanciano direttamente in mezzo a questa puntata e traduciamole per chi non parla inglese. Se vi trovate mai davanti a un poliziotto, l'unica cosa che dovete dirgli è: sei tu il colpevole. E allora cominciamo con una puntata, una nuova puntata di Parole Ribelli. Ci mandano dei complimenti al 346-66-73-263. Ringraziamo e siamo felicissimi di tenere compagnia ai nostri ascoltatori e invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a tenerci compagnia a loro volta. Quindi oggi ci ricolleghiamo subito, andiamo a presentare la scaletta della puntata. Ci ricolleghiamo subito a quelle che erano gli argomenti di chiusura della mattinata informativa. Si parlava di TAV, si parlava di Valsusa, si parlava di finanziamenti, si parlava di anche ancora della marcia di sabato nelle cronache di Stampa e Repubblica. Bene, sappiamo che la marcia di domenica è andata benissimo, ma ha avuto sul finale un momento di nervosismo da parte della questura, che ha fermato il furgone che seguiva la marcia. Uno dei redattori di Radio Blackout ha passato una notte in carcere. Nulla di grave, nulla di sconvolgente. Sappiamo, diciamo, il popolo TAV e chiunque ne faccia parte si è sempre preso le responsabilità di quel che fa, ma sentiamo un po' anche per, diciamo, cogliamo questa occasione di avere un compagno che è anche avvezzo a questi microfoni per presentare il campeggio di quest'estate del 18 luglio. Prima ancora però andremo a sentire un compagno, diciamo, degli studenti medi che andranno ad aprire poi formalmente, diciamo, il periodo di campeggio dell'estate di lotta. Ci sposteremo poi ben più a sud, ma sempre contro le grandi opere, sempre in termini di grandi sperperi, grandi devastazioni, verso l'East Coast a Fano. Sappiamo che è partito, grazie al terreno politico preparato dallo Sblocca Italia, stanno partendo una serie di operazioni grandi, diciamo, di grandi opere, tra cui la questione Sibilla, le trivelle. Bene, io non levo altro spazio appunto a questa questione, perché saranno gli stessi compagni di Fano a dirci un po' com'è andata. Abbiamo visto un corteo un mesetto fa, un mese e mezzo fa, con 40.000 persone che assolutamente in maniera determinata hanno detto che difenderanno quella costa. Andremo poi a presentare, diciamo, se ne abbiamo tempo, Crack Unito, se non in questa puntata, nella prossima. Crack Unito, una giornata a cura dei Campus Invaders, un collettivo con cui abbiamo parlato varie volte, quel piccolo elemento di disordine in un'università che si vorrebbe essere liscia e terreno attraversato secondo percorsi prestabiliti. Bene, quella grossa astronave che era il Campus Einaudi è stata, diciamo, attaccata da una piccola cellula di alieni che ha voluto rompere questi percorsi. Ecco, gli Invaders si prendono anche gioco nel nome di questo evento, di Hack Unito, una delle operazioni dell'università di Aiani, un'università che appunto su termini accattivanti, hashtag e finta partecipazione ha costruito per ora molto. Ma saranno appunto gli stessi compagni del campus a dirci un po' come hanno pensato questa giornata. In ultimo continueremo un po' avevamo presentato nell'ultima puntata questo progetto Valderrama, è un progetto molto, appunto, un progetto molto bello, un progetto di storie, di narrazione, di calcio, insomma tutte cose che toccano molto spesso tanti e tante di noi, e se sicuramente non in prima persona, comunque tutti quanti e tutte quante abbiamo avuto delle domeniche in ostaggio della partita, se anche non tifiamo. Bene, il calcio visto da un'altra prospettiva, il calcio visto dagli occhi di chi non ci fa i soldi sopra, il calcio visto anche in quelle piccole pieghe che stanno fuori dalle inchieste, dagli scandali e dal giro di business a cui si è voluto ridurre uno sport che tutti amiamo. Quindi per oggi, diciamo, per ora andiamo avanti così. Ovviamente i microfoni sono aperti per qualunque cosa succeda in giro per questo paese. Ricordiamo ancora una volta i contatti: 011 2495 669 e 346 66 73 263 per scriverci. Battisto, Jack, spigni, play, si ce sei, si ce fai, lascia sta, tanto posto non ce sta per te, perché quando sarà il momento capirai di cosa sto parlando, perché sto flippando, vedo un caratteraccio ma io come Rocco Tano, io faccio bene ciò che faccio e faccio punk romano, spacco in quattro, faccio il botto e tanti saluti, sto coi miei lupi come Alex sta con i suoi trubi, se non ti gusta la mia musica, cambia acustica, a canna torna a casa e studiati la metrica, se non riesci a entrare lascia stare, chi affoga solo in mezzo al mare, forse avrà confuso il dire e il fare. Pensava ad un evento, a un nuovo movimento, aveva già la copertina pronta, invece il vento è cambiato all'improvviso e l'ha deluso, e ora critica chi ci sta dentro perché è stato escluso, vuole giocare con il danno a chi è più alternativo, ma lui sul giornale giudica, io a casa su un foglio di carta scrivo, e c'ho un motivo, per questo sto sul colle del fomento, il conto tornerà quando sarà il momento. Quando ma so che verrà, chi ha detto cosa ascolterà poi si vedrà, io tanto tengo in mente tutti i volti, nomi, le persone non le scorderò, lo sai che non ci sto, credevi che la merda che sta in giro avesse più valore del mio punk romano, verrà il momento quindi molto buono, resto dove sto perché la strada mia l'ho scelta già da un po', credevi di seguirmi invece no, lascia stare me, quando verrà il momento il conto tornerà, credevi di svoltare invece resti qua, niente metrica, scomodo come speaker zoo, cercherò il migliore metodo per venire su, la spinta ce l'ho dentro adesso come 6 anni fa, massiccio come il suono della giungla della mia città, non è il momento di smaltire, basta aspettare, quando sarà il momento saprò bene cosa fare. E allora 11:31 ed entriamo nel vivo di questa puntata di Parole Ribelli. Come dicevamo, attacchiamo un po' ricollegandoci anche a quello che è stato il tema, l'ultimo tema della mattinata informativa. Andiamo in Valsusa, parliamo di Notav, parliamo di quest'estate di lotta, un'estate di lotta cominciata questa domenica, un'estate di lotta che appunto ha visto i Notav lanciare un messaggio molto chiaro, che è quello che va avanti da 20 anni: no a questo treno, no a questo modello di sviluppo. Abbiamo visto anche la risposta della controparte, che dai giornali ha come al solito parlato della cattiveria di questi famigerati Black Bloc, e ha risposto, diciamo, dando grandi articoli su quanto invece sia sia prosperoso il futuro di questo treno. Sappiamo appunto che il nervosismo sul finale di questa giornata, per anche la riuscita e l'importanza di questo segno, ha fatto sì che si andasse a fermare il furgone che durante la manifestazione, durante la marcia, aveva seguito il popolo Notav in tutti i suoi spostamenti. Su questo furgone sappiamo, come dicevamo in apertura, è uno dei redattori della nostra radio, che invece di raccontarci, diciamo, la sua brutta esperienza, ci presta la sua voce per rilanciare su un'estate di lotta che da domenica è cominciata benissimo. Gianluca, ci senti? Sì, ciao, un saluto a voi. Gli ascoltatori e l'ascoltatrice di Blackout. Bene, io non aggiungo altro, ti chiedo appunto se hai delle considerazioni da fare, fai pure, e in caso presenta l'estate di lotta, insomma, i microfoni li conosci, sei libero. Sì, no, brevemente, personalmente credo che la giornata di domenica sia stata una giornata riuscita, importante, partecipata e determinata come nella migliore tradizione della lotta Notav, che sceglie i tempi, i modi della sua lotta e delle forme che mette in campo. Ho ascoltato ieri l'intervista che è stata fatta durante lo spazio redazionale ad Alberto Perino e sostanzialmente condivido tutta la lettura che lui ha fatto e anche, come dire, i segnali positivi che coglieva nella giornata. Certo, hanno facile campo i giornali come La Stampa e del mainstream a fare i conti sui numeri, non sono quelli del 2011 o di altri momenti, ma questo si sapeva benissimo prima di questa manifestazione. Si sapeva che si sta attraversando un momento non semplice, di fronte soprattutto al perdurare del cantiere delle innumerevoli forme di repressione penale, amministrativa e soprattutto economica che sono state messe in piedi negli ultimi due o tre anni. Però chiunque era lì ha potuto vedere quello che era questa manifestazione, in numeri significativi, 4-5 mila persone, dove era presente tutta la vasta gamma, il ventaglio, diciamo così, della composizione del movimento Notav, dagli anziani ai bambini, alle famiglie, ai giovani e meno giovani, tantissime presenze della valle, della città, anche significative delegazioni da fuori, su cui in particolare mi sembrava positivo e importante lo sforzo fatto dai compagni di Roma del movimento di Lotta per la Casa e di Bologna, che sono venuti numeri significativi con le bandiere stop astratti, anche a significare una unità di intenti e di fondo. Sì, ricordavamo che il campeggio Notav, appunto l'estate Notav, è sempre un'occasione per connettere lotte, far nascere rapporti, insomma far incontrare persone e percorsi, e la marcia di domenica sicuramente ha espresso questa ricchezza sedimentata negli anni, magari appunto non nel grande numero, non nella anche se poi appunto 5.000 persone sono parecchie, però questa, diciamo, si raccolgono anche i frutti della continuità. Esatto, a me sembrava anche che era tutto sommato serena la partecipazione, anche nei momenti, diciamo così, più duri, più problematici. La mattina tutto il corteo praticamente è arrivato fino a quei 100-150 metri dai cancelli, poi ci sono stati l'uso copioso dei gas da parte delle forze dell'ordine e della questura, e diciamo il corteo, il movimento ha fatto quello che poteva. Si fa tanto questo discutere che è molto ad uso di stampa, cosiddetti black bloc eccetera, e chi si trovava lì e doveva coprirsi per non regalare denunce, come dire, anni di condanne come sono stati quelli precedenti, e su quello si, secondo me, si chiude la discussione rispetto a quei termini. A me è sembrata che la gente sostanzialmente erano ben pochi gli scandalizzati e c'era una sostanziale unità di intenti e appoggio a quello che veniva fatto, come è stato poi dimostrato nel pomeriggio, quando di nuovo una fetta consistente del corteo, e praticamente lì non si vedevano i cosiddetti black bloc, come vengono definiti dalla stampa o da chi è interessato a mettere zizzania, e si è vista una composizione variegata che ha tirato giù quei jersey, e di nuovo la risposta sono stati idranti, il gas in larga misura, e di nuovo però, come dire, il movimento, il corteo ha tenuto per quello che poteva, comunque ha dimostrato, come diceva ieri Perino perfettamente, che la situazione è ben lungi dall'essere pacificata. I notav, come dire, non hanno messo la testa a posto, o meglio, ce l'hanno a posto da sempre come ce l'avevano prima, e sono determinati nella loro battaglia, e a seconda dei momenti scelgono le forme e i modi di opporre questa resistenza. La giornata di domenica, da quelle che sono state le riunioni del coordinamento, l'assemblea popolare del lunedì prima, di una settimana fa, voleva essere una giornata determinata di conflitto che dava un segnale, che andava a aprire un'estate che ci auguriamo di nuovo partecipata, significativa e ricca di presenze dalla valle, da Torino e da fuori, e in questo senso il campeggio dal 18 al 26 sarà di nuovo un'occasione di confronto, di dibattito e di iniziativa e di lotta. Verrà anticipato in questi giorni dal corteo di tanti studenti medi che vengono un po' da tutto il paese, e soprattutto ricordiamo che ieri, questo è un altro fatto nuovo importante, è partito una marcia che da Lione giungerà fino a Venaus, proprio nella, credo intorno al 15 arriverà a Venaus, diciamo dal lato francese, tanti compagni francesi, svizzeri, ma credo anche tanti italiani, faranno un po' una strada in qualche modo speculare a quella che era stato il campeggio itinerante dell'altro anno, per poi arrivare a Venaus e diciamo esserci in qualche modo un passaggio del testimone, e dal 18 al 26 un nuovo campeggio invece proprio a Venaus, e nuovi 10 giorni di iniziative sul territorio. Bene, quindi appunto l'appuntamento di cui ci facciamo eco dai microfoni è quello del 18 luglio, che vedrà il campeggio un po' più movimentato e animato da dibattiti, incontri, ovviamente la condivisione di pranzo e cena come sempre, passeggiate, iniziative sul territorio come appunto diceva Gianluca, ovviamente l'area di Venaus, il presidio di Venaus accoglie chi è tutti e tutte in qualunque momento vogliano andare. Dal 18 al 26 è semplicemente, diciamo, organizzata e garantita una logistica un po' più intensa. Per il resto la Valsusa appunto è lì, aspetta, volentieri accoglie chiunque voglia farsi un giro. Sulle considerazioni che facevi prima, appunto, non aggiungo nulla, perché credo che siano state toccate un po' le parti importanti, la composizione del corteo e la determinazione, diciamo anche la condivisione, la determinazione, la gioia anche del popolo notav, che finalmente riesce anche a mettersi in gioco di nuovo in un modo in cui forse era un po' mancato. Quindi è stata appunto, per chi c'era, credo, una giornata molto bella, una giornata che lascia ben sperare per i prossimi mesi estivi. Gianluca, grazie mille, ci sentiamo, ci si riaggiorna con te, con chiunque altro, insomma, con chi sarà disponibile su quest'estate di lotta. Un saluto. Grazie mille. E allora andiamo avanti, mettiamo un po' di musica, ma con una certezza che, allora, ci dicono al 346-66-73-263, un compagno ultrasessantenne si è preso un lacrimogeno in un occhio. Ecco, io sinceramente non sapevo di questa notizia, questo è veramente ovviamente una cosa che suscita rabbia, anche perché sappiamo benissimo che in Valsusa i poliziotti si prendono la libertà di mirare e sparare con questi lacrimogeni, che comunque se ti prendono appunto se ti prendono in un ok, siamo in attesa della prognosi, un po' di capire quali siano le conseguenze. Noi assolutamente mandiamo tutta la solidarietà che possiamo dai nostri microfoni a questo compagno Notav, che probabilmente si è preso il lacrimogeno perché appunto non si è fatto intimorire da quella che è la tecnica che ormai da anni usano, di gasarci come se nulla fosse. E appunto la cosa che dicevo, che è diventata anche molto fastidiosa negli ultimi tempi, è questo uso dei lacrimogeni come fossero proiettili, che poi di fatto lo sono proiettili che fanno anche molto male, mirano puntualmente ad altezza uomo, mirano puntualmente appunto in viso, e se prendono e puntano a fare il ferito. Allora speriamo assolutamente che questo compagno si riprenda al più presto possibile, che non abbia assolutamente conseguenze rispetto al suo occhio. Chiunque avesse aggiornamenti ovviamente ci tenga informati, ci dia la possibilità anche di informare gli altri, perché ovviamente se toccano uno toccano tutti, non ogni parte o ogni singolo del popolo Notav comunque fa parte di un corpo più ampio che tende a muoversi insieme e che cerca anche di non lasciare nessuno indietro. E allora i nostri migliori auguri a questo, appunto, a questo compagno, con la consapevolezza che il popolo Notav resisterà fino alla fine dei tempi. The greatest form of control is where you think you're free, when you're being fundamentally manipulated and dictated. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch it. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bar, you think you're free. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us proud to be slaves. And everybody's just walking around, heading to clouds, and won't awaken to a dead in the grave. But then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end of day. Everybody is slaves, only some are aware that the government releasing poison in the air. That's the reason I collect so many guns in my lair. La canzone si chiama End of Days, fine dei giorni, per questo abbiamo detto fino alla fine dei giorni e non alla vittoria. How could any government bestow that? A proud people who believe in political throwback. That's not all that I'm here to present you. I know about the Black Pope in Solomon's Temple. Yeah. About the Vatican assassins and how they will get you. And how they clone Barack Hussein Obama in a test tube. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? These motherfuckers, they controlling us now. And no one's talking about how they made us proud to be slaves. And everybody... Walking around, head in the clouds, I won't awaken to a dead in the grave. But then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end. Whoever built the pyramids had knowledge of electrical power. And you know that that's the information that they suppress and devour. Who you sit the motherfuckers that crashed in the tower? Who you sit that made it turn into ash in an hour? The same ones that invaded Jerome. The ones that never told you about the skeletons on the moon. Yeah, the ones that poison all the food you consume. The ones that never told you about the Mount Vesuvius tombs. The bird flu is a lie, the swan flu is a lie. Why would that even come as a surprise? Yeah, the polio vaccine made you die. It caused cancer and it cost a lot of people their lives. Do y'all know about Bohemian Grove? How the world leaders sacrificed the children in robes? Lucifer is God in the public school system. I suggest you open up your ears and you listen. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us fight in these slaves. And everybody's just walking around, head in the clouds, and won't awaken to a dead in the grave. But then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end of days. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. If you can persuade them that what they see with their eyes is what there is to see, you got them. Because they'll laugh in the face of an explanation that portrays the bigger picture of what's happening. And they have. E allora 11.46 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Per chi si fosse messo all'ascolto ora, siamo in onda con Parole Ribelli che vi terrà compagnia ancora un'oretta. E allora parlavamo di TAV, parlavamo soprattutto di no TAV e soprattutto dell'estate no TAV che è cominciata questa domenica, ma che appunto andrà avanti lungo il corso di tutta la stagione. E allora siamo in diretta con Stefano del KSA che ci dà una panoramica un po' sull'apertura delle danze in Valsusa che sarà appunto fatta dagli studenti medi. Stefano, ci senti? Eccomi, ci sono. Perfetto, aspetta che ti abbasso che sennò ti sentiamo troppo. Perfetto. Allora Stefano, appunto, io senza che ti introduco, l'estate di lotta è cominciata, l'estate è cominciata domenica scorsa, troverà uno dei suoi momenti più, diciamo, più intensi verso fine luglio, passando però per un appuntamento che ormai si svolge da anni e che ormai è un momento, diciamo, un momento di incontro ricorrente per ragazzi e ragazze da tutto il paese e non solo. Quindi ti prego di illustrare ai microfoni di Radio Blackout che cosa succederà. Ma sì, esatto, proprio come dicevi tu, l'estate di lotta al presidio di Venaus verrà aperta dal campeggio nazionale studentesco NOTAV, che andrà dal 3 luglio al 5 luglio. Questo è un momento che è stato costruito sia per l'esigenza di avvicinare la lotta al TAV agli studenti di Torino e valsusini, ovviamente, e sia per inaugurare, come dicevo, il campeggio dal presidio di Venaus che andrà avanti fino a fine settembre. Durante questi giorni ci saranno ovviamente iniziative di lotte e momenti assembleari, ma molto tempo sarà dedicato alla socialità, come pranzi e cene, ma soprattutto come concerti serali, come quello di sabato sera, per esempio, che vedrà artisti come Willy Peyote o Pullman Style al presidio di Venaus. Appunto, come dicevo, la socialità e i momenti di confronto non mancheranno, perché al presidio saranno presenti studenti da tutta Italia, perché è bene ripeterlo, è bene evidenziarlo, come la TAV è un'opera che non coinvolge solo la Valsusa o il Piemonte, ma è una di quelle grandi opere che coinvolge tutto il paese, togliendo appunto soldi all'istruzione, alla scuola pubblica, con cui ci confrontiamo tutto l'anno, con scuole che cadono a pezzi oppure di servizi. Ma infatti ricordiamo a chi ci ascolta la campagna con un metro di TAV, che aveva visto poi proprio, diciamo, dei contributi importanti non solo concettualmente ma praticamente proprio dagli studenti, che giustamente dicevano che con un metro di TAV si mettono a posto un sacco di scuole, si danno borse di studio, si mette appunto, si mettono in regola insegnanti. Quante cose si possono fare con un metro di TAV? Con un metro di TAV. Esatto, quindi concludo dicendo, rilanciando appunto il campeggio, rifacendo un sunto delle date, quindi dal 3 al 5, luglio al presidio di Venaus. Quindi grazie dello spazio dedicato. Assolutamente, grazie a te e grazie, diciamo, appunto sempre anche a chi ci ascolta, perché se no parliamo da soli, ma soprattutto grazie a chi Valle sempre ospita con gioia e con piacere questi appuntamenti e da anni ci dà la possibilità di incontrarci e di goderci anche il bello e le gioie della lotta. Grazie mille Stefano. Grazie. Bene, allora appunto i microfoni di Parole Ribelli non possono fare altro che invitare tutti quanti in Valsusa a fare eco a

venne novembre, Dino pareva sparito per sempre. In dicembre una neve insistente cadde all'arrivo delle truppe tedesche. Laura attese paziente, vide schiacciarsi il torrente. Ad aprile vide il bosco vagire, gonfiare le gemme. Si ricorsero voci, ognuna diceva qualcosa. Dino è stato colpito, ha cambiato vita, una donna nuova la sposa. È scappato a Londra, ora trama nell'ombra. Dino ha tradito, è passato coi fasci, ora lavora giù a Roma. Ma Laura, anche se non sapeva, sapeva una cosa: il suo Dino era vivo e l'amava tanto ora come allora. Il pensiero di lui si muoveva nell'aria costante, dalle cime alla valle, fino ai nidi di rondine sotto i tetti delle stalle. Le diceva fra i venti: non turbarti, perché, perché, perché tu non mi perdere. Anche se tu non mi vedi, sarò sempre con te, con te, con te. Prova a sorridere. Laura non chiese, ma tenne fede, speranza e ragione. La chiamarono pazza, malnata, malata d'amore. Ma lei col dolore non aveva voluto nessun altro. Lui stava tornando, lo aveva scritto dentro, sul mare. Era un giorno più caldo, il vento inseguiva le scie delle lepri. Il sole di maggio era alto, aveva già passato lo zenith. Una sagoma lontana venne fra i germogli dei boschi. Un uomo smagrito, patito, con una barba di mille giorni. Era tornato Dino, il tempo è un pianto che non si recupera. Braccio scarno, un numero alto degli internati di Buchenwald. Ma negli occhi lo stesso chiarore, lo stesso sorriso. Le disse: non so se per te lo stesso, io sono lo stesso. Cominciò il cammino e vissero intensamente. Videro rinascere in Italia insieme nel CLN. Insieme vissero anni finché lui una sera si spense. Ma poco prima le prese le mani e le disse sorridente: tu quanti anni mi dai? Quanti giorni mi dai? Non so quanto vivrò, tu quanto tempo vivrai? Glielo disse alla sera anche parlando fra sé. Tu mi veda o non veda, sarò sempre con te. Tu quanti anni mi dai? Quanti giorni mi dai? Quante stai da adesso alla fine, sali sulle colline, io sarò lì con te, con te, con te. E allora 11.57, siamo sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ricordiamo ancora una volta i contatti: 011 24 95 669 per scriverci, per chiamarci, 346 66 73 263 per scriverci. E allora, come dicevamo in apertura di puntata, sempre un po' in tema di grandi sprechi, grandi opere e soprattutto grandi furti, grandi truffe, più che altro, ci spostiamo un po' più giù sull'East Coast italiana. Allora, sappiamo che quello del governo Renzi è un, diciamo, un terreno che ha preparato di fatto l'accelerazione di tutta una serie di processi che erano già in atto. Abbiamo visto che l'opera, diciamo, di ristrutturazione, di riorganizzazione anche sociale più ampia, che ha visto andare in scena, diciamo, un primo atto con il Job Act, una legge di stabilità. Abbiamo visto la buona scuola, il comparto della formazione, in particolare attendiamo l'autunno con la buona università. Bene, per quanto riguarda appunto formazione e lavoro siamo sistemati, ma ecco il territorio, secondo il governo Renzi, che ce l'ha raccontato dallo Sblocca Italia, un territorio sempre, diciamo, a disposizione del profitto di pochissimi, sempre a disposizione della devastazione, secondo, e sempre appunto disponibile a essere il mezzo attraverso cui di fatto poi si va avanti la disparità di distribuzione di risorse. Il TAV ovviamente è l'esempio, diciamo, paradigmatico, ma è anche e soprattutto grazie ai NoTav, non tanto perché abbia delle dinamiche particolarmente differenti. Sappiamo che le grandi opere vengono assegnate a un general contractor che non fa appalto né niente, ma di solito è amico di qualcuno e che a sua volta, diciamo, chiama tutti gli amici per fare una grande festa, le grandi feste del cemento che stanno devastando tutti angoli molto importanti, molto belli e soprattutto nostri di questa terra. Allora, come dicevamo in apertura di puntata, i compagni, diciamo, sulla costa si stanno mobilitando, abbiamo visto un corteo partecipatissimo non tanto tempo fa, ma la discussione va avanti, la lotta è ancora tutta da mettere in piedi. E allora siamo in diretta con Francesco. Francesco, ci senti? Sì, vi sento. Ciao, un saluto a tutti, agli ascoltatori di Radio Blackout. E un saluto qui dalla costa, insomma, dalla East Coast. Bene, noi ragioniamo in questi termini perché siamo musicalmente schierati sull'hip hop, però... esatto, immaginavo. Comunque, appunto, io diciamo che potrei dire tante cose, ma preferisco che le dica direttamente tu. Un po', appunto, abbiamo parlato di questo in generale, del contesto politico che di ristrutturazione più ampia, che fa sì che poi lo Sblocca Italia si collochi in mezzo a questa, quella che potremmo dire una fase di transizione, anche di rifondazione di un paradigma comunque di classe, in cui siamo tutti più poveri, più ricattabili, soprattutto anche più stretti, perché diventano sempre meno gli spazi percorribili senza il dover pagare un biglietto, senza il dover mettere a rischio la propria salute. Abbiamo visto che in valle quello che si diceva da tempo, ovvero la nocività di quest'opera, si sta avverando, perché di fatto ci sono polveri, scavi che vengono continuamente scaricati nella Dora. Appunto, andiamo più giù, lo scenario cambia radicalmente, perché di montagna diventa marino, la musica sembra un po' la stessa. Sì, diventa marino, ma diventa anche collinare, se ci si pensa, perché fondamentalmente lo Sblocca Italia, come hai benissimo spiegato, illustrato, introdotto, lo Sblocca Italia fondamentalmente riguarda un insieme di un rilancio dell'operazione Grandi Opere, e quindi della completa espropriazione da parte del potere della vita su e del controllo della propria vita all'interno del territorio in cui si vive. Fondamentalmente questo viene completamente intaccato, viene completamente, se si può dire, esautorato dallo Sblocca Italia. Da noi lo Sblocca Italia ha una, se si può dire, una cadenza molto particolare, perché appunto riguarda appunto il mare e le colline. Come ben sappiamo, lo Sblocca Italia riguarda tantissimi ambiti, dalla costruzione, dalla realizzazione della rete ad alta velocità di internet, alle autostrade, cantieri come possono essere quelli dei ferroviari, dell'alta velocità, per esempio mi riferisco al sud dell'Italia, ma appunto riguardano anche le trivellazioni, trivellazioni che possono essere fatte ovviamente alla ricerca di idrocarburi, quindi di gas e di petrolio, sia nel mare Adriatico, che da sempre è stato interessato a partire dagli anni 50, quindi dalla politica di Mattei e della sua Eni in mano pubblica, di esplorazione, di estrazione di gas, fondamentalmente poco petrolio c'è, cioè nel mare Adriatico, comunque scadente, e anche sull'entroterra. Quindi abbiamo una doppia valenza, un doppio territorio, se si può dire, su cui appunto noi siamo appunto interessati a tutelare, perché è il territorio dove si vive, soprattutto una zona come la nostra, altamente, dove vi è una produzione intensiva agricola, cioè intensiva nel senso di piccoli appezzamenti, di piccoli terreni che vengono coltivati a vino soprattutto, quindi a vite oppure ad olivo. Fondamentalmente lo Sblocca Italia se ne frega altamente di quello che sia la possibilità di vita delle persone, le possibilità di vita delle persone, e se ne appropria dicendo che appunto, utilizzando tra l'altro la stessa strategia che è stata utilizzata per la TAV, appunto dichiarando questo tipo di operazioni di interesse nazionale, di interesse strategico. E qui appunto è un collegamento, si può fare assolutamente un collegamento con quello che sta succedendo, con quello che è successo e che sta succedendo nel nord Italia e su da voi. Quindi cosa è successo? Fondamentalmente questo fenomeno, le prime lotte nascono più o meno nel centro della costa adriatica, soprattutto in Abruzzo e in Molise, ma è soprattutto in Abruzzo che appunto vi è stata una esplosione di questi movimenti locali che si sono poi coalizzati, uniti, e che poi sono sfociati nella grande manifestazione del 23 maggio a Lanciano, dove alcuni compagni delle Marche, appunto, fra cui io, siamo andati insomma a camminare insieme, a vedere com'era la situazione. 60.000 persone in una cittadina di 40.000, era veramente impressionante appunto come come radicato da parecchio tempo questo tipo di movimento. Un movimento che appunto si incentra soprattutto sulla, non semplicemente sulla tutela del territorio ambientale, ma anche sulla riappropriazione della propria vita e delle decisioni politiche sul proprio territorio, che in questo momento è, se si può dire, il terreno di conquista da parte del potere, del terreno di resistenza su cui per me noi come movimento dobbiamo assolutamente non più transigere. Bene, assolutamente, appunto, ricordiamo, io addirittura avevo detto 30.000 persone, anzi mi correggo con piacere, perché sono molto felice che fossero 60.000 invece che la metà di quel che avevo detto, anzi molto meglio. E, sicuramente, appunto, so che domani voi avete un incontro al riguardo, proprio mettete un po' sul piatto anche delle questioni, diciamo, tecniche, tra virgolette, quindi, perché appunto bisogna anche un po' combatterli con le loro armi, vengono a dirti che si porterà lavoro piuttosto che occasioni per il territorio, ma effettivamente sappiamo che di solito la realtà è un'altra. Vai. Sì, domani faremo un incontro, il primo incontro in città a Fano, proprio sul tema delle trivellazioni nel Mar Adriatico e delle istanze di ricerca che riguardano anche una zona collinare molto vicina alla nostra città, praticamente una delle colline che si affacciano sulla valle del Metauro, su cui Fano, che Fano appunto chiude con la costa. E appunto è un primo incontro che cerca di mettere sul piatto prima di tutto le problematiche tecniche, cioè cosa succede con lo sblocca Italia, quali sono le istanze di ricerca che riguardano specificamente il nostro territorio e in generale tutto il mare Adriatico, che conseguenze possono avere, quali sono i pericoli, qual è l'impatto sulle vite. Ecco, questo noi domani cercheremo di farlo in questo incontro pubblico alle 9, tra l'altro un incontro che si realizzerà in un luogo, se si può dire, anche simbolo delle lotte locali e specifiche della città di Fano, perché è la vecchia area dove vi aveva sede l'aeroporto militare della Seconda Guerra Mondiale di Fano, che per anni è stato e che è da anni oggetto prima di tutto di un'espropriazione da parte del comune di Fano per potervi costruire palazzoni ovviamente destinati a nessuno, perché l'esigenza abitativa a Fano ci sono già tante case sfitte e quindi si voleva costruirne altre. Fortunatamente questo pericolo è stato sventato e da anni è il centro della battaglia politica di un gruppo di associazioni ambientaliste o meno di Fano per costruirvi un parco pubblico, quindi anche questo, cioè una riunione, un'assemblea su questo tema che si realizza all'interno di un ambito che è appunto quello di un parco e che si vorrebbe realizzare, strutturare come un parco pubblico organizzato e allestito. Ma a parte questo, domani quindi ci sarà un'assemblea pubblica tecnica per appunto dare qualche primo dato che noi, ma soprattutto i compagni di lotta dell'Abruzzo ci hanno fornito in merito alle nostre aree. Soprattutto Fano è importante perché al largo di Fano vi sono, o comunque al largo più o meno della costa fanese, vi sono 6 o 7 piattaforme che appunto indirizzano, portano il gas a terra e soprattutto a Fano. Fano ha sede uno dei centri di smistamento del gas della costa adriatica, che poi mette in pressione il gas e lo inserisce nella rete del gas nazionale che poi arriva anche in Europa. Quindi ecco, prima di tutto sarà una relazione fatta da Agostino De Santis proprio su questo tema, cioè sul tema appunto di quello che può essere realizzato a Fano, di che cos'è un'istanza di ricerca, che cosa provoca un'istanza di ricerca. E poi dopo invece la seconda parte, ma sullo stesso livello, si situa lo sblocco Italia, quali sono le conseguenze e quello che abbiamo detto insomma prima, per cercare di dare una prima informazione alla cittadinanza. Ecco, questo è il compito della riunione di domani. Certo, quindi sicuramente vi ponete, credo, una domanda che è un po' di interesse collettivo, ovvero qual è dove vanno i soldi e perché, perché certo. Era molto appunto quello, certo, il paragone che facevi tu su diciamo quale zone di interesse strategico vengono chiamate. Ecco, innanzitutto, a parte che queste diciture di solito poi favoriscono più che una chissà, più che qualcosa di interessante, ecco, un qualcosa di interessato, e soprattutto la militarizzazione dei territori, perché ricordiamo rispetto, senza voler appunto per forza tornare in Valsusa, però ricordiamo il decreto, il pacchetto sicurezza famoso dell'estate di 2 anni fa, che di fatto poi faceva, diciamo, si faceva scudo del corpo delle donne per dire adesso questa è la legge antiviolenza, e poi di fatto su 3 capi su 4 riguardavano assolutamente altro, riguardavano il controllo del territorio e la possibilità di sottoporre le zone di interesse strategico a un controllo militare, e poi sappiamo tutti, diciamo, che cosa significa ciò: soldi nostri spesi in presenze non gradite per garantire la riuscita di progetti che probabilmente ci renderanno molto più poveri. E quindi sicuramente appunto, a che cosa, quando si guarda a un campo, un prato, un appezzamento vuoto, cosa si vede? Si vede un palazzone, si vede il profitto, la possibilità di speculare, o si vede la possibilità di creare qualcosa tutti insieme per che non vada, che non porti l'arricchimento a nessuno, ma una miglior qualità della vita a tutti? Allora, di chi sono le risorse che poi vengono spese nel fare questi queste grandi opere, queste grandi cose? Poi dimmi. No, di tu. No, sono naturalmente assolutamente d'accordo con te, ed appunto per questo che, cioè, fondamentalmente la lotta, il tipo di lotta che noi pratichiamo, sicuramente è impossibile replicare l'esempio, e sarebbe anche sbagliato per me da un punto di vista politico, perché il contesto territoriale è profondamente diverso, tra l'altro c'è il mare, insomma non è una zona di montagna, però comunque l'esempio, noi come compagni delle Marche, dall'Abruzzo ci siamo stati parecchie volte, insomma, su in Val di Susa, e quindi il fatto di aver assorbito dentro di noi l'esperienza politica che voi dalla sua avete, si è praticato, insomma, ha sicuramente portato alla nascita di queste lotte. È assolutamente è stata assolutamente determinante la nascita di quel la nascita, la crescita e il sopravvivere di quella lotta per le lotte territoriali che stanno veramente nascendo in tutta Italia, soprattutto sulla costa adriatica. Addirittura si parla di gruppi contro le trivellazioni in Croazia. Ma infatti quindi vedevo anche, per esempio, sulla pagina ci sono un sacco di persone che vi scrivono da altri, diciamo, punti della altre latitudini, sempre della costa, diciamo, certo. Il grido no trivelle è abbastanza, appunto, sì, perché fondamentalmente l'area interessata è tutto l'Adriatico, perché nel 2014 le operazioni di trivellazione, di studio, soprattutto di prospezione, quindi di indagini nel fondo marino, sono iniziate nella parte di mare adiacente alla Croazia. Poi, guarda caso, un certo signore di nome Romano Prodi nel 2014 rilascia un'intervista, credo al Messaggero, dove appunto prospettava per l'Italia la possibilità di inserirsi in questo tipo, perché se si chiedeva, insomma, Romano Prodi, ovviamente Prodi non è che parla a caso, parla ovviamente per un certo interesse. Ti interrompo solo perché proprio era, cioè ti dico vai avanti, perché era esattamente la domanda che ti avrei fatto dopo, un po' anche esatto. Il contesto, diciamo, le puntate precedenti rispetto a questo momento, appunto sappiamo che lo Sblocca Italia non nasce come un fungo da solo, ma è assolutamente anzi no. Il sancire di una diciamo il sancirsi come possibili, legali, anzi desiderabili a quanto pare, di una serie di processi che erano già in corso, anche perché nel 2014 di fatto poi, per esempio, un Prodi non è che avesse nessuna carica ufficiale, evidentemente maturavano interessi che si stanno costruendo da un po', quindi va pure. Sì, sì, nel 2014, maggio del 2014, Romano Prodi sul Messaggero, adesso credo il 24, adesso non mi ricordo la data precisa, però insomma verso la fine di maggio rilascia un'intervista sul Messaggero in cui praticamente dichiara: in Croazia stanno trivellando o stanno per iniziare a trivellare, perché non trivelliamo anche in Italia, dato che è una risorsa energetica possibile? Ovviamente è una dichiarazione che si inquadra all'interno di un clima politico che ha visto nell'anno precedente, nel 2013, governo Monti, la pubblicazione del piano strategico energetico nazionale, il quale prevede per l'Italia la costruzione, cioè in pratica la realizzazione in Italia di un hub di distribuzione del gas e del petrolio strategico per l'Europa, fondamentalmente. Quindi l'Italia si inserisce in questo, lo sblocco Italia si inserisce in questa linea di storica. Fondamentalmente quindi lo sblocco Italia a fine del 2014 sancisce, oltre alla costruzione, all'avvio rapidissimo della costruzione di tratte ferroviarie, come ho detto precedentemente, perché lo sblocco Italia riguarda tantissimi temi. Ma soprattutto gli articoli 37 e 38 parla specificamente delle prospezioni, quindi delle istanze, la possibilità di ricercare gas e petrolio sottoterra e sotto il fondale marino dell'Adriatico, quindi della parte che è di competenza dell'autorità italiana. E quindi da lì continua l'input sicuramente è stato dato dalle grandi compagnie petrolifere, soprattutto italiane come l'Eni, ma anche di livello internazionale. Basti pensare al fatto che l'istanza più grande di indagini nel fondale marino nel Mar Adriatico è di una società canadese, società canadesi che sono da anni esperte in soprattutto ricerca, quindi più che di estrazione, di ricerca. E quindi ecco, la linea storica è abbastanza chiara: abbiamo degli input da parte di grandi aziende che hanno bisogno ovviamente di investire capitali in borsa per guadagnarci, e fondamentalmente però hanno bisogno nei confronti dei loro investitori di offrirgli qualcosa. Offrirgli qualcosa cosa vuol dire? Che ogni anno loro, al momento della presentazione del bilancio, dal momento in cui avanzano la proposta di un aumento di capitale, agli azionisti, quindi ai futuri finanziatori, devono prospettare dei nuovi lavori. Dei nuovi lavori che sono trivellazioni, che sono costruzioni, parlando del terreno o comunque della zona 2, la costruzione di cantieri per le tratte ferroviarie ad alta velocità e compagnia bella. Ovviamente fregandosene altamente di quelle che sono le vite delle persone, materiali concrete, perché loro hanno un solo bisogno, cioè quello di aumentare il loro profitto a discapito delle vite degli altri. Questo si realizza ormai non solo in Italia, nella costa adriatica, ma si realizza ovunque vi sia la possibilità poter distruggere il territorio per far guadagnare poche persone. Questa è la cosa più grave, e fondamentalmente è questo l'obiettivo che noi come compagni, come movimenti della costa adriatica, che ci siamo impegnati su questa lotta No Trim, ci vorremmo impegnare, perché limitare la lotta soltanto all'aspetto ambientale, secondo noi potrebbe limitare fortemente. Noi vorremmo creare un collegamento fra la lotta sul terreno ambientale e la lotta appunto contro il capitale. Cioè qual è il senso dell'Eni di costruire nuove trivellazioni? Non è quello di trovare il gas, perché è notorio che il gas e il petrolio nel Mar Adriatico è di scarsissimo livello. Quindi, oppure anche il, insomma, è il, questo, noi avremo assolutamente, per me, avremo, e per noi insomma, questo è un ragionamento che non è che faccio solamente io, bisognerebbe trovare appunto, cercare di far capire alle persone che c'è un collegamento tra la lotta ambientale e quindi solamente, cioè pensando soltanto alla qualità dell'aria in cui si respira, e il capitale che ha questo obiettivo, cioè quello di investire per aumentare il proprio profitto e quindi di agire in borsa, e quello di guadagnarci in borsa. Questo bisogna che entra, insomma, che vorremmo far incominciare, non dico a capire, ma vorremmo incominciare a far pensare, perlomeno a far ragionare le persone del nostro territorio, un territorio che, bisogna dirlo, riconoscerlo, soprattutto quello della la zona mia particolare di Fano, è sempre stato molto poco abituato alla lotta politica. Noi come Grizzly, però, insomma, noi come compagni che sono nella costa adriatica, che ci siamo impegnati su questo tipo di lotta, ormai ce lo siamo detti, ora o mai più, ecco. Bene, guarda Francesco, io non posso, diciamo, potrei chiederti tantissimo, ma piuttosto ci riaggiorniamo sperando che appunto ci siano sicuramente, anzi ci saranno momenti di lotta di cui parlare, discussioni che vengono portate avanti e occasioni anche per incontrarsi, appunto come può essere stato il corteo di un po' di tempo fa, come può essere l'incontro di domani al Grizzly di Fano, ricordiamo appunto dai microfoni di Radio Blackout, ascoltatrici e ascoltatori che si trovassero in zona, tutto trovate i compagni che appunto discutono contro la devastazione dei nostri territori, trovate tutto sulla pagina Facebook del Grizzly. Sì. Di Fano, grazie mille Francesco, appunto. Prego, un saluto a tutti gli ascoltatori. Un saluto a te, a risentirci. Ciao, ciao. E allora ringraziamo di nuovo Francesco perché appunto sicuramente ci ha fatto una panoramica molto interessante un po' anche del come si è arrivati qui. E allora mandiamo un pezzo che è proprio della Costa Parla e ci dice che la realtà è che nessuno ci regalerà nulla, la lealtà tra coloro che lottano è alta e lo scontro è l'unica via possibile con voi. Veleno dalle mie radici, se la mia ombra maledici è puro essenza. Tra l'odio e amore per dove provengo sta un'anima che porto dentro. L'aria piena di sospetti, nella zona che si aggira un complotto fantomatico chiamato Costa Nostra. Chi non regge la botta ci va sotto, no, non cambierete i nostri piani. L'UX è come non è stato mai, mangiare merda non mi spaventa e lo sai. Cogli la mia urgenza, stile non classificato, miro in alto per davvero, come la banda Cavallero. E come il nero non si squaglia se controllati sorvegli il male, dalla parte dei pirati, dai quartieri dove siamo nati. Ma le origini le stesse, se i fighetti ci chiamavano sfigati, zero feste, zero spazio per gli infami, arrivano i caponi, battetegli le mani. Io porto luce dove tutto è buio, quando il gioco si fa duro, perché ognuno ha il suo futuro, se capisci questo, se assapori qual è il peso, il prezzo da pagare da adesso, ogni volta è da giocare. Sai che non hai perso in partenza, chi porta la consapevolezza sopravvive sulla costa, sulla costa, c'è chi vive sopravvive sulla costa, sulla costa, sulla costa, c'è chi vive sopravvive sulla costa, sulla costa, sulla costa, c'è chi vive sopravvive sulla costa, sulla costa, sulla costa, c'è chi vive sopravvive sulla costa. Calma nervosa, schierati a fianco, con che missione? Adesso prendi una ragione dalle liriche, zero prediche, per chi vive una battaglia, c'è una forza che si scaglia sulla costa, come fossi ipnotizzato il resto, il nemico cerca un pretesto, ma colpisce a vuoto, se la dignità di un uomo in alto resta, non c'è porto che l'arresta, logica, criminale, ma necessaria, l'unica speranza è che salti tutti in aria, se ogni volta può essere per sempre, c'è un dannato, se lo vive sulla pelle, un ribelle, caccia merda, rotazione senza finzione, un esaltato, dove il mio pensiero mi ha portato in una situazione da campo minato, c'è qualcuno che si muove nella giungla della costa, sulla costa, c'è chi vive, sopravvive sulla costa, sulla costa, sulla costa, c'è chi vive, sopravvive sulla costa, bande spede che ci sta, sulla costa, che canta come stai guarda, sulla costa, chi sarà come va? c'è chi dice, c'è chi fa. Per chi si fa strada, niente è spianato, ma non è storia. Per chi ci caga, la pool indaga su degli elementi in carica dinamica. Danneggiamenti in teoria come la pratica. Puri colpi, di un merda non li senti. Godo solo nel pensare al dopo, come una partita è stata aperta. Finché dura, senza paura. Quello che ho imparato per la strada va applicato per la causa. Di giustizia di chi ha subito, che non trova spazio nei fascicoli di un magistrato. È scontato, perciò rimane solo il tempo di affrontare ogni cosa sul momento. Un giorno sognerò di nuovo, nel frattempo lascio tracce per il sottosuolo, perché suono come sono. Ora è sempre sulla costa, nella quiete c'è tempesta. Si muove, è il mare mosso troppo grosso, o largo la flotta che costa, la zona catastrofica logica che si sposta. Sul litorale ogni giorno, ogni notte, rivivi del tuo piagne, chi s'abbraccia e chi s'avregne, meno poche dei guadagne. Giocati la vita con una passatella, la storia di un dannato, quanto è bella e quanto è bella. Sulla costa, c'è chi vive sopra, vive sulla costa. Sulla costa, sulla costa, c'è chi vive sopravvive sulla costa. Sulla costa, sulla costa, c'è chi vive sopravvive sulla costa. Sulla costa, sulla costa, c'è chi vive sopravvive sulla costa. Young God Bill, hit him with that unknown sign she revealed. Bless the universe and jewels, kick the rhythm, kick blues. Plus most of all, young God, keep hearing news. Play the devil, boil your life, son, stay a rebel. Love your woman, treat it right, have babies on schedule. Activation the trouble, how the old niggas school me. 2 G's mention me, 7 D's unruly. Continue living ungodly laws, stashing cash in the depths of the walls. Bulldozer, smashing bricks, crashing with cash and chips with got beats to mix. Continue living ungodly laws, stashing cash in the depths of the walls. Bulldozer, smashing bricks, crashing with cash and chips with got beats to mix. Born in the dark, a madman with many sins. The toast must come out, nigga, we don't have any ends. By any means necessary, we will bury a nigga quick fast and throw his ass off the ferry. On our way to Staten on the upper deck rapping. Them niggas packing toast like my cats up in the Patmos. Who claps the most when they hear the toast? This drink is for everybody who rides boats. Cheaper airfare this year. Don't care if you ride a Greyhound. Four train to the boogie down. Put me down for the freestyle of town. It'll be now or never when my clique come together. Under the underground, we bound by the treasure. My lyrical gas is control the horns and the stormy weather. Put your damn hands together. Don't miss a measure. Some old beats never sever. Splashed out, thorough, mashed out to burrow. Another day skids, I'll live till tomorrow. Sorrow for the shit that happened. 4-9 clapping. Living Jeopardy life, cause I'm rapping. Everyday life is still everyday life. Seeing friends on the Ave around the way like they ain't posting peace, but I know they see me with the fellas who jealous of my glow. Show they colors every time it's more than two brothers. Killing man dead like our mothers don't love us. Caught between abandoned and stranded. Black babies gotta eat street life, break 10 commandments. But fuck it, how will I live? How will you live? If some shit ain't got to give. Black kids supporting they fam, plus living on the land. Hell no, I ain't seen you like Medina Black Sham. Continue living ungodly laws, stashing cash in the depths of the walls. Bulldozer, smashing bricks, crashing whips, cash and chips with got beats to mix. Continue living ungodly laws, stashing cash in the depths of the walls. Bulldozer, smashing bricks, crashing whips, cash and chips with got beats to mix. Pops on my block, harassed by the cops. Young Z's playing weed Z's in flower pots. The God Justice just lost his pops on the dock. I was 18 years old, flipping counting clock. God kept the box, I more kept the Glock. It's been almost 10 years since y'all came been locked. Brothers get lost in the system, they were family, yeah, I miss them. Eat out the same kitchen, crusade on righteous mission. Fucked up conditions, tired of this way you're living. The nine has risen to new dimensions, intentions is flawless. I fear for future daughters, we're living in a place that was built on slaughter. Lives was lost in the water, who set the order? To rob all the masters, I see you in the hereafter. I hear the baby's laughter, these times my mind captures. Like young black men, it's with Conan capture. Who brings disaster upon all the masses? Blow off the dust, wipe off all the ashes. Continue living ungodly lords, bashing cash in the depths of the wall. Bulldozer, smashing bricks, crashing with cash and chips with got beats to mix. Continue living ungodly lords, stashing cash in the depths of the wall. Bulldozer, smashing bricks, crashing with cash and chips with got beats to mix. :31 sulle libere frequenze di Radio Blackout, Parole Ribelli sta avvolgendo al termine e allora dovendo sacrificare diciamo una delle cose annunciate in scaletta, scegliamo di sacrificare la presentazione di Crack Unito, non perché non sia rimandabile la presentazione in sé, quanto perché Crack Unito si svolgerà di fatto il 9 luglio, quindi abbiamo ancora una puntata che ci permetterà di presentarlo. E allora portiamo avanti quello che è un appuntamento che abbiamo inaugurato nella scorsa puntata, quello con Valderrama, storie di calcio, diciamo altro calcio e altre storie rispetto a quelle che sentiamo tutti i giorni. Señor golazo, gol de Colombia a la altura del minuto 40 en un tiro cruzado, maniobra individual de nuestro pibe Valderrama. Le storie della buonanotte di Valderrama. Grazie, prego, scusi, tornerò. La società ringrazia l'allenatore per il lavoro fin qui svolto con professionalità e serietà e gli augura le migliori fortune umane e professionali nel prosieguo della carriera. In principio fu la sciarpa al collo, le battute in conferenza stampa, le foto coi tifosi. Pochi mesi dopo la sciarpa è un cappio, le battute una litania di alibi e lamentele, le foto sono collage irriverenti e grotteschi. Era arrivato carico di aspettative, fra la curiosità dei giornalisti locali, difesa a 3 o a 4 non importa, nel calcio gli schemi sono relativi, è un gioco dinamico, conta la mentalità. Alla fine conteranno di più la pioggia, il terreno di gioco, il campo d'allenamento, il sole negli occhi, i tacchetti sbagliati, ci mancavano molti titolari, loro sono più avanti nella preparazione, sono sempre più avanti, loro. A inizio campionato, i carichi di lavoro si fanno sentire. A metà campionato, giochiamo 3 partite a settimana. A fine campionato, se ci arrivi, abbiamo dato tutto, non avevamo più benzina. Il presidente lo ha accolto in macchina, lo ha portato al ristorante. Ha fatto di tutto per farlo sentire a casa. Ma è una casa lussuosa in cui lui, cresciuto in provincia, ha paura di dire la frase sbagliata, di parlare di politica. È rigido, composto, con la paura di rompere la bomboniera di cristallo della comunione di un figlio obeso o di un figliastro indisciplinato. Il mister è un po' goffo, cerca di passare per un vincente, per un saggio, ma il più delle volte sta zitto perché non sa che dire. Gli hanno insegnato a dire poche cose e non vuole distrarsi per non dimenticarle, testone giù e lavorare, parlano i fatti. Nella casa fuori città, dove ha parcheggiato la moglie e i figli, l'ingresso è pieno di cestini, pasta locale, olio locale, vino locale, pacchi di caffè, come se ci fosse la guerra. Ormai ha dismesso il cappottone portafortuna della promozione e il baffo è diventato un sottilissimo e mefistofelico pizzetto. Si è fatto la lampada, per sembrare più giovane, indossa una collanina, bene in vista sotto la camicia. La catenina è stretta attorno al collo taurino ormai cadente, un tempo atletico e muscolare. Più giù ci sono una Madonnina, i santi medici, l'ampolla di acqua santa. Il patron è noto per essere bizzoso, volubile. Una volta ha persino detto col suo accento lucano: gli allenatori sono come le donne. Prima del matrimonio fanno tutto e poi hanno sempre il mal di testa. Dovrebbero fare come i direttori d'azienda, invece, che si inseriscono senza modificare i piani societari esistenti. Eppure, stavolta, dice di volergli lasciare carta bianca, anche sul mercato. Voglio essere come Ferguson, come Ferguson, come Ferguson, come Ferguson, come Ferguson. E invece, presto diventa una moglie mal sopportata, brava solo a lamentarsi e cercare scuse. I soldi della spesa non mi bastano, l'organico non è all'altezza. Il vice e il quarto uomo sono gli unici che lo stanno ad ascoltare ormai. In provincia tutti lo trattavano come un vate, un mago della tattica. I giocatori lo consideravano un padre, allenatore come un padre, che ti ascolta mite ed autorevole, allenatore come un nonno, che ti rimprovera severo, che la s'allunga, maestro di bastoni e carote. Allenatore come uno zio, che ti fa ascoltare i dischi giusti durante l'allenamento e sa suonare la chitarra. Lui non è come gli altri, lui ci capisce, dicono i calciatori. Fino a quando uno di loro si alza dal lettino per gli addominali e lo mette in imbarazzo, davanti a tutti, abbassando il volume. Qui non siamo in provincia. Allenatore fratello maggiore, ma pur sempre allenatore. Difficile mantenere la distinzione dei ruoli. Ha smesso di giocare da poco, il capitano ha quasi la sua stessa età. Mettere fuori squadra il capitano e tutti quelli che gli rimano contro. Ammutinamento. La squadra ora gioca per perdere. Sfuriata alla stampa, queste cose piacciono all'ambiente. Grida strozzate, pugni sul tavolo. Voglio quel panettone. Mercato di riparazione. Vogliamo solo giocatori pronti, che possano innalzare il livello della rosa. Una rosa piena di spine. Gli acquisti di gennaio sono tutti rotti e vengono dal lentissimo campionato portoghese. Panettone agguantato con un pareggio col Chievo e ingoiato voracemente. Il solito pareggio col Chievo, quasi un monito esistenziale, nel caso si fosse montato la testa. Nemmeno il tempo di deglutire e con la bocca piena di briciole sento la piena fiducia del presidente. Il mister non è in discussione. Dolcissimo e letale bacio della morte. I numeri che diceva e forse davvero credeva non contassero, ormai si accumulano nella testa come le frasi ripetute all'infinito da un folle. 4-3-3, imponiamo il nostro gioco. 4-2-4, non esiste. 4-4-2, ci serve più copertura sulle fasce, rimaniamo propositivi, ma la coperta resta cortissima. Arrigo beffardo mi guarda dall'alto. 3-5-2, ormai lo fanno tutti, perché io no? Facciamo densità, suona bene. 5-3-2, ho paura, gli occhi della morte. Nevio, aiutami tu, con le tue sopracciglia austere, veglia su di me. 4-3-1-2, non dite che ho paura, metto il fantasista. 4-1-4-1, sono confuso, ho freddo. Ultima stazione, 4-2-3-1. Ora saranno contenti quelli che dicono che sono un difensivista. Sì, gioco a una sola punta, ma ho i tre trequartisti. 4-2-3-1, mi avvolge, mi protegge dalla stampa, mi fa sentire sicuro con i due mediani. Buttiamo la palla avanti, ci pensano quei tre, e la punta prima o poi si sblocca. Il presidente è contento, faccio giocare l'uruguagio, il brasiliano e lo svizzero, magari facciamo una plusvalenza. Il traghettatore non avrà mai il mio scalpo. Caronte, inverti la rotta, io non mi dimetto, esonero. Ora siede sul divano in ciabatte e guarda la squadra finalmente giocare, segnare, vincere. Passano le settimane. Esaurisce i complimenti per la sciapa cucina dietetica della moglie. Rimpiange dannatamente il minestrone del supercorso ai tempi di Coverciano. Rilascia un paio di interviste. Certo, il campo mi manca, ma vado in bici con Guidolin. Sente i suoi maestri, Carletto, Nedo, Giovanni. Gli dicono di aggiornarsi, di fare un giro in Inghilterra, dove sembra che si imparino numeri diversi. Marcello lo critica alla televisione, altri scrivono bollito. Squilla il telefono. È il patron. prima di accettare pensa: stavolta non mi faccio fregare, stavolta ho il coltello dalla parte del manico. Torna in panchina più saggio, il panico è passato, ha scoperto il buddismo, non gli serve più l'acqua santa. Il calcio è questo, la palla è rotonda, nel nostro mestiere contano i risultati. Ripete il mantra a se stesso e agli altri, la palla continua a rotolare, tutto è ciclico. La società ringrazia l'allenatore per il lavoro fin qui svolto con professionalità e serietà e gli augura le migliori fortune umane e professionali per prosieguo della carriera. Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango con te, perciò. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Premi e Cotillon, fascia d'oro per la Miss. Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango con casche, perciò. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Prego, vuol ballare con me? Balli se ha coraggio. Grazie, preferisco di no. Di no, di no. Non ballo il tango col casche, perciò. Grazie, prego, grazie, scusi. Avete ascoltato Le storie della buonanotte di Valderrama.it. E allora sono le 12.42, Parole Ribelli anche per oggi vi deve salutare. Ci sentiamo martedì prossimo, ma voi intanto rimanete assolutamente in ascolto dei 105.250, le libere frequenze di Radio Blackout. Tra poco, due minuti precisamente, il GR. Noi vi lasciamo a un ultimo pezzo e ci si vede la settimana prossima.